di petrolio e ambiente lo facciamo con questo approfondimento che ha curato per noi Giovanni De Pascalis. Radio Radicale, mentre gli Stati Uniti sono costretti a fronteggiare il loro peggiore, più drammatico disastro ambientale e climatico degli ultimi 100 anni, il prezzo del petrolio continua a salire. In 4-5 anni il prezzo del greggio è salito infatti da 15-20 dollari al barile ai 70 dollari di oggi, e non è escluso che nell'arco di pochi mesi possa anche arrivare a toccare i 100 dollari al barile. L'economia del mondo è completamente strutturata intorno al petrolio, in particolare per i fertilizzanti agricoli e naturalmente per i trasporti automobilistici ed aerei in particolare, e così appunto l'intera umanità si trova a dover fare i conti con costi sempre più alti, sia ambientali dovuti al surriscaldamento terrestre, quindi ai fenomeni meteorologici estremi, sia costi economici con il petrolio sempre più caro, per non parlare poi anche delle implicazioni nella politica internazionale. Esiste naturalmente una corrente di pensiero nell'opinione pubblica mondiale convinta che gli Stati Uniti siano andati ad occupare militarmente l'Iraq anche per le questioni attinenti al controllo di alcune tra le riserve di petrolio più consistenti del mondo. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con il professore Ugo Bardi, professore di chimica all'Università di Firenze, presidente di ASPO Italia. L'ASPO è l'associazione che studia la questione del raggiungimento del picco di produzione o di estrazione di petrolio nel mondo. Allora, noi salutiamo il professor Ugo Bardi, che tra l'altro è anche autore di un libro, il libro intitolato La fine del petrolio, edito da Editori Riuniti. Poi naturalmente parleremo anche delle implicazioni ambientali, climatiche, nell'uso dei combustibili fossili, ma credo che sia opportuno iniziare, professore, dalla questione del concetto di picco del petrolio, picco nella produzione, di petrolio. Ecco, di che cosa si tratta? Vedete, questa cosa del picco del petrolio se ne parla dagli anni 50 e non è una cosa complessa o difficile, anche se va detto che molta gente, non avendone mai sentito parlare tuttora, alla fine ne rimane un po' perplessa, dice cos'è questo famoso picco. In realtà, se ci pensate bene, l'esaurimento fisico di una risorsa non è così semplice come uno potrebbe pensare all'esaurimento, diciamo, delle lattine di birra che uno ha nel frigorifero. Uno finché ne ha, ne beve, non so, una al giorno, e poi quando non ce n'è più, bisogna che vada a ricomprarlo. Allora, per una risorsa che si estrae con grandi costi, con grandi sforzi dall'esplorazione, da tutti i sistemi che ci vogliono per raffinarla, trasportarla, eccetera, questo non succede, cioè non ci troveremo noi mai un giorno a guardare dentro il buco del pozzo e dire orca miseria, non c'è più petrolio. Questo non è così. In realtà ci sono dei pozzi cosiddetti facili che si estraggono normalmente per primi, che sono abbondanti, non troppo profondi, e che magari hanno una pressione interna che fa sì che il petrolio sgorghi almeno inizialmente di pura pressione interna, come si vede nel film. Non so se qualcuno ce l'ha presente, quando sgorga, schizza la fontana di petrolio. In realtà, via via che uno estrae pozzi più facili, rimangono sempre più difficili. Questi pozzi più difficili sono sempre più costosi, perché uno deve usare tutte tecniche complesse per tirar fuori il petrolio, per scavare più a fondo, per cercare in zone sempre più lontane, inospitali o magari sotto il mare a grande profondità. Questo fa sì che a un certo punto costo di estrazione comincia a aumentare, al punto tale che si riflette sul prezzo di vendita. Se il prezzo di vendita aumenta, come si sta succedendo adesso, questo causa quello che si chiama la distruzione della domanda, cioè il mercato si riduce. Riducendosi il mercato, a fine si riduce anche la produzione, perché i consumatori di petrolio sono costretti a risparmiare. E a questo punto, se la produzione fino a un certo punto era aumentata, poi non ce la fa più aumentare, siamo passati attraverso un massimo, che è questo famoso picco, il picco detto di Sì, e Rupert. poi c'è la questione delle riserve, cioè dei giacimenti scoperti che sono a disposizione per il futuro. Per cui possiamo anche dire che nel momento in cui i giacimenti scoperti, le nuove riserve scoperte non riescono più a rimpiazzare i giacimenti che Consumo. sono in via di esaurimento, sostanzialmente la produzione dovrà andare a diminuire. Esattamente, secondo i dati del gruppo ASPO, questo che a lei ha detto così bene si verifica dal 1986, cioè è dall'86 che noi scopriamo meno petrolio di quanto ne consumiamo. Possiamo anche dire, in altre parole, che l'offerta di petrolio, cioè il petrolio che viene estratto, non riesce assolutamente, non riuscirà nel prossimo futuro a soddisfare una domanda che è enormemente crescente, soprattutto per via dei paesi emergenti, e quindi il prezzo, per le leggi di mercato, non potrà che salire anche moltissimo rispetto al livello già alto raggiunto negli ultimissimi anni, in particolare negli ultimi mesi. Ecco, proprio sul Sole di oggi c'è un grosso articolo interamente dedicato alle tesi di David Campbell, uno, diciamo, dei più noti esperti mondiali, geologi esperti di petrolio, che ha lavorato tutta la vita nel campo del petrolio. Lui dice che addirittura è dal 64 che le scoperte mondiali di nuovi giacimenti hanno iniziato a declinare. Vero, vero, il picco delle scoperte è stato all'incirca nel 64-65, Colin Campbell è il nostro presidente onorario, incidentalmente. Ah, ecco. Dell'ASPO italiana, ed è il fondatore e presidente dell'ASPO internazionale. Sì, quindi è evidente che il petrolio non scomparirà di colpo, ma andrà a declinare, e qualcuno dice che forse il picco del petrolio addirittura potrebbe essere già stato toccato e superato. Esattamente, questo è un punto ancora molto controverso, ma pare che il picco, per esempio, per il petrolio cosiddetto light effettivamente sia stato superato proprio qui nel 2005. Poi evidentemente ci sono diversi tipi di petrolio, e quello light è fra i petroli più pregiati, perché lo si raffina facilmente, e ovviamente quello che è più pregiato, più desiderato, viene a essere consumato prima, poi si riduce poi a attaccare a petroli cosiddetti heavy, che o anche vari tipi di petrolio, per esempio, contengono zolfo, e questi si possono utilizzare per fare carburanti, che in fondo sono degli usi più principali, però a maggiori costi. Sì, ecco, tra l'altro c'è la questione appunto delle riserve che sono gigantesche. A quanto ammontano in questo momento ufficialmente? Questa è una bella domanda, ecco. Sono i dati ufficiali, sì. Ci sono dati meno ufficiali, ci sono dati estremamente ufficiosi, e quindi diciamo i numeri sono estremamente vari. Si va da un massimo di totale delle risorse petrolifere mondiali, stimato in uno studio di qualche anno fa del Survey geologico degli Stati Uniti, che era veramente ampio, che parlava di 3.000 miliardi di barili ancora disponibili, però questo era uno studio che viene ancora ritenuto valido per molti aspetti, però ci sono altri studi che indicano quantità molto minori. Diciamo, per non confondere chi non è uno specialista in questo campo, la questione è che secondo gli studi, facendo un po' la media fra i vari studi, si ritiene che ci sia ancora disponibile da estrarre circa altrettanto petrolio, e forse un po' meno secondo alcuni, di quello che è stato estratto finora, con una differenza fondamentale, che questo petrolio che rimane da estrarre è petrolio più costoso, più difficile, più acido, contiene più zolfo di quello facile che abbiamo estratto fino adesso. Ecco, quindi arriviamo alla questione appunto del costo dell'estrazione e dei nuovi giacimenti che vengono scoperti, utilizzati a grandissime profondità, a molte migliaia di metri di profondità, e tra l'altro anche sotto il fondo di mari e oceani. Pare che addirittura si è arrivati a trivellare sul fondo di mari profondi anche 2000 metri. Sì, sì, sono imprese tecnologiche eccezionali, cioè si riesce a fare delle cose incredibili oggi che non si potevano neanche pensare qualche anno fa, però tutte queste cose costano, non è da pensare che il petrolio che si estrae in queste condizioni difficili, oppure anche più semplicemente da pozzi molto piccoli e molto dispersi, non è da pensare che sia buon mercato così come eravamo abituati fino ad oggi. Questo è, in fin dei conti, noi non estrarremo tutto il petrolio estraibile, io credo. Non so se lei ha sentito nominare la famosa frase di Yamani, lo sceicco Yamani, che è stato ministro del petrolio in Arabia Saudita. Sì, sì, l'ho sentito. Questa frase famosa, l'era del petrolio non finirà perché finirà il petrolio, così come l'era l'età della pietra non è finita perché finivano le pietre, perché effettivamente si arriva a un punto in cui il petrolio sarà lasciato nei pozzi, perché è troppo costoso, troppo difficile, troppo complicato, e sperabilmente avremo qualcosa di meglio. Saremo forse entrati nell'era dell'energia solare e dell'idrogeno, per esempio? Sperabilmente sì, però non sarà facile questo qui, perché anche queste tecnologie sono al momento ancora costose, più che costose c'è da investirci sopra, cioè gli investimenti che noi abbiamo fatto negli ultimi 50-100 anni, abbiamo fatto enormi investimenti sull'infrastruttura per il petrolio, dalle raffinerie, le petroliere, tutto il sistema di distribuzione, lo stoccaggio, eccetera. Se noi dovessimo ora dire si comincia ora a usare il petrolio, la quantità di investimenti da fare sarebbe talmente spaventosa che non ci penseremmo neanche. Allora, per passare dal petrolio all'energia solare bisogna buttare via tutti gli investimenti fatti finora e investire nuovamente in un'infrastruttura nuova. Ma questo in piccola parte è già iniziato? In piccola parte è già iniziato, ma debolmente purtroppo. Se non si fa uno sforzo molto superiore a quello che stiamo facendo adesso, non ce la facciamo. Non ce la facciamo anche perché appunto con l'inizio dell'esaurimento del petrolio, ecco, Colin Campbell dice è finita l'età del petrolio facile, ecco, anche questo, ecco, è un modo di dire molto chiaro, per dire che appunto non stiamo andando ad un esaurimento improvviso del petrolio, ma in un'era in cui ci sarà sempre meno petrolio e sempre più caro. Esattamente. Ecco, già adesso, insomma, tutti sono consapevoli del fatto abbastanza incredibile, almeno come previsione, cioè che nel giro di pochissimi anni il prezzo del petrolio è salito da 15-20 dollari al barile a 70, e a questo punto non è improbabile che forse entro 12 mesi arrivi anche a 100 dollari al barile. No, perché no? Te dirò onestamente, anche noi di Aspo che prevedevamo questa cosa, siamo stati presi un po' alla sprovvista dalla rapidità di questa evoluzione. Cioè, i nostri dati parlavano della crisi che si sarebbe dovuta essere verso il 2007-2008, insomma, che sia salito così rapidamente il petrolio proprio in questi ultimi tempi ci ha preso un po' tutti di sprovvista. Sì. Però evidentemente, probabilmente il mercato risente già di una percezione di una futura scarsità, che al momento la produzione è ancora in grado di soddisfare la domanda. Ecco, tra l'altro, tornando alla questione delle riserve petrolifere ufficiali, sempre Colin Campbell dice che sono grossolanamente inattendibili, a cominciare dalla Russia, che guarda caso sulle sue riserve ha messo il segreto di Stato, ma anche le riserve gigantesche, le più grandi al mondo, quelle dei paesi del Golfo Persico, dell'Arabia Saudita, del Kuwait, anche quelle sembrano abbastanza inattendibili, almeno nelle quantità dichiarate ufficialmente, visto che 20 anni fa furono praticamente raddoppiate all'improvviso. Infatti, sì. Lei l'ha detto benissimo, non avrei neanche niente da aggiungere a come l'ha espresso lei, sono tutte dati segreti, sì, che non sono dati di sapere a noi comuni mortali, per cui qualunque dato che uno vuole tirare fuori va bene, si vocifera che da certe parti si vocifera che non so, l'Arabia Saudita abbia grandi riserve segrete da ancora da sfruttare, da un'altra parte si dice che al contrario non solo queste riserve segrete non ci sono, ma anche le riserve dichiarate sono molto superiori a quelle vere. Ora, sì, su quale sia la verità è molto difficile dire, io non lo so per sì, certo. Sì, va bene. E allora andiamo alla questione poi degli effetti dell'uso, del consumo di petrolio e degli altri combustibili fossili, quindi il gas metano e il carbone. Il carbone poi era il combustibile che è stato utilizzato nell'inizio della rivoluzione industriale, dell'età industriale, quindi in particolare nel XIX secolo, e che poi è stato sostituito all'inizio del Novecento dal petrolio. Ecco, le riserve di carbone sono molto superiori rispetto a quelle di petrolio e di gas, solo che il carbone è più inquinante, produce più effetto serra, è così? Esattamente, la questione a questo punto che lei sta accennando è di cercare di capire come funziona tutto il sistema economico, perché noi giustamente spesso ci concentriamo sul petrolio, che è un po' la risorsa cruciale di tutto il sistema economico, indubbiamente la più importante, ma non la sola. Però il sistema economico è appunto un sistema, cioè vive, esiste, prospera e si espande attraverso l'interazione e lo sfruttamento di tutta una serie di riserve, di risorse naturali, di capitale, di lavoro, di tecnologia, e quindi a questo punto, esaurendosi la risorsa cruciale, stiamo disperatamente cercando di sostituirla con qualche altra cosa, che potrebbe essere il carbone, con attenzione, perché trattandosi di un sistema, il sistema reagisce ai cambiamenti in modi spesso non lineari, cioè non è detto che si possa sostituire, anzi sicuramente non si può sostituire il petrolio col carbone e lasciare tutto come sta e non cambia niente, assolutamente. Se andremo verso questo tipo di cosa, avremo dei cambiamenti profondi in tantissime cose, strategici, tecnologici, economici e climatici. Ecco, ricordiamo che per esempio l'Enel sta realizzando nuove centrali a carbone, sia pure a tecnologia si dice carbone pulito, cioè con dei sistemi molto potenti di filtraggio delle emissioni dalle ciminiere, insomma. Sì, la pulizia è una cosa che si compra, uno può fare una centrale al carbone pulita quanto vuole pagando costi molto alti, anche questo è uno dei problemi, se voglio del carbone molto pulito devo pagarlo molto caro. E quindi alla fine il fatto che il carbone oggi ci costa meno del petrolio potrebbe invece questa necessità annullare? Non siamo del tutto sicuri, perché anche il carbone è stato ampiamente sfruttato nel passato, quindi anche lì c'è il discorso di riserve sempre più diluite, sempre più difficili da estrarre, sempre più sporche anche come il carbone, per esempio in termini di zolfo, di altre impurezze che ci sono. Quindi in realtà come il sistema economico reagirà all'introduzione del carbone non è chiaro. In principio è una soluzione a breve termine che ci potrebbe dare qualche sollievo in tempi brevi. Peraltro va detto una cosa a proposito del carbone pulito. Uno pulito vuol dire che non emette inquinanti come per esempio ossido di zolfo, però la combustione del carbone per sua natura è proprio una questione chimica che non si può cambiare con nessuna ciminiera, niente di simile, emette una grande quantità di biossido di carbonio, che è il principale gas serra. Quindi produrre la stessa quantità di energia col carbone, qualunque cosa uno faccia, per quanto uno possa cercare di essere efficiente al massimo possibile, aumenta l'emissione di gas serra, e questo ha dei problemi sul riscaldamento globale, l'uragano Katrina e tutte queste cose che poi influiscono di ritorno sul sistema, che ne soffre per altri motivi. E certo, e quindi siamo arrivati al problema dell'effetto sul clima e sul futuro del nostro pianeta causato appunto dall'uso di combustibili fossili. Quindi lei diceva praticamente la CO2 che viene emessa bruciando i combustibili fossili, il carbone ne ha circa un 30% in più rispetto al petrolio? Dipende dall'efficienza della centrale, diciamo come ordine di grandezza potrebbe essere. Sì, ecco, tra l'altro c'è anche la questione degli scisti bituminosi. Questo è un'altra possibilità, ma io credo che questa non si possa tranquillamente non considerare, perché sono molto costosi da estrarre proprio in termini energetici, cioè secondo me né dagli scisti né dalle sabbie bituminose, di cui si parla molto, otterremo mai energia a così a buon mercato da poter mantenere il tipo di società industriale a cui siamo abituati. Sì. Ecco, dicevamo il surriscaldamento dell'atmosfera, l'effetto serra, lo scioglimento di ghiacci, ma anche l'aumento di fenomeni meteorologici estremi, e naturalmente proprio in questi giorni è davanti agli occhi di tutto il mondo quello che è accaduto nel sud degli Stati Uniti, sulle coste affacciate sul Golfo del Messico. Ci sono meteorologi esperti del clima come Kerry Emanuel del MIT di Boston, Massachusetts Institute of Technology, che affermano che la forza, l'energia degli uragani è aumentata del 50% negli ultimi 30 o comunque negli ultimi 50 anni. Ricordiamo tutti anche l'uragano Andrews nel 1992, che è quello che fece danni ancora maggiori forse rispetto a quello che è accaduto in questi giorni. Quindi negli ultimi 15 anni vi sono stati due uragani sicuramente più potenti, più distruttivi degli ultimi 100 anni. Vedete, io credo che sia tutto parte della simulazione del sistema mondo, che ha una componente meteorologica o climatologica, se preferisce, e una componente economica che poi dipende dalle risorse minerali. Cioè, il concetto è questo, io non voglio passare passare per meteorologo o climatologo che non sono, ma evidentemente le capacità predittive delle strutture scientifiche che abbiamo sono discretamente buone, cioè è di moda ignorare queste cose, dice ma io ho bisogno di energia, lo faccio col carbone, non me ne importa niente dell'effetto serra e del cambiamento climatico. Però in realtà noi abbiamo delle strutture, delle capacità, dei modelli che ci permettono di prevedere le conseguenze di certe azioni che facciamo. Questo viene ignorato spesso a livello politico, a livello di pubblico, ma tutta questa previsione meteorologica di, per esempio, della estremizzazione degli eventi climatici, cioè della maggior forza degli uragani, delle piogge più intense e allo stesso tempo della siccità più intensa, era tutta una cosa prevista sulla base di modelli già da diversi anni, modelli che a livello politico però sono stati completamente ignorati, se non attraverso il Trattato di Kyoto, che peraltro sappiamo tutti con quanta difficoltà e quanta opposizione incontra. Quindi lo stesso per quanto riguarda l'esaurimento delle risorse minerali, già nel 1972 ci fu un famoso studio che si chiamava in italiano I limiti dello sviluppo, che già aveva previsto le difficoltà a cui ci troviamo di fronte oggi verso il 2010, o non lontano dalla situazione in cui ci troviamo oggi. Noi abbiamo la capacità di prevedere le conseguenze di quello che facciamo, posto che ci si metta in testa che il sistema è complesso e che agendo su una parte del sistema le influenziamo tutte. Quindi quando si parla di carbone, uno dice vabbè, il carbone mi risolve un problema, che è quello immediato di avere energia elettrica a un costo ragionevole, però ne causa una quantità di altri che in qualche maniera dobbiamo quantificare. Sì. E non si può dire Katrina è un evento che ci manda il Signore, che manda giù la pioggia e il sole, e non lo potevamo prevedere. Non potevamo prevedere Katrina in sé, in quanto tale, ma sapevamo che insistendo a lanciare gas detti clima alteranti o semplicemente gas serra in atmosfera aumentavamo la possibilità di questi eventi. Sì, sì, ma comunque gli uragani nell'area del Golfo del Messico stanno aumentando. Esatto. Anche come numero, già adesso siamo già arrivati a 10 uragani contro una media annua di 7, siamo all'inizio della stagione autunnale degli uragani, nel passaggio tra l'estate e l'autunno. Sì, sì, questo appunto è uno degli effetti di questa alterazione della composizione atmosferica. Ecco, tra l'altro questo riguarda anche l'Italia, perché qualcuno dice che il Mar Mediterraneo sta andando sempre più, sta assumendo le caratteristiche di un mare tropicale, di un mare molto caldo. La temperatura della superficie sta aumentando anche nel Mediterraneo. Questo è noto, si sa, ora chiaramente i climatologi possono dire molto di più su questo punto. Evidentemente abbiamo un'evidenza chiarissima che il clima anche in Italia sta cambiando, su questo non c'è nessun dubbio. Quindi dobbiamo preoccuparci anche noi italiani di questi fenomeni meteo estremi e sempre più violenti. Ah, assolutamente, assolutamente. Noi siamo un piccolo pezzettino del sistema mondo, che stiamo facendo anche noi la nostra parte nell'immettere gas serra nell'atmosfera, e ne stiamo subendo le conseguenze anche noi. Certo, l'Italia è responsabile nell'emissione di gas serra per più dell'1% del totale. Qualcosa di simile, sì, esattamente. Ecco, volevo anche chiederle, poi andiamo a concludere questa chiacchierata, qualcosa sull'industria automobilistica, perché sappiamo che i trasporti automobilistici sono quelli che, diciamo, tra virgolette, bevono più petrolio. Gli Stati Uniti consumano circa un quarto di tutto il petrolio mondiale. È tantissimo, il 25% di tutto il petrolio estratto nel mondo viene utilizzato negli Stati Uniti, e gran parte di questo va al sistema dei trasporti. Esattamente, è un altro dei punti essenziali che ci troviamo di fronte, di sostituire un sistema dei trasporti che ormai è obsoleto. Cioè non è che noi abbiamo bisogno di automobili a benzina di un certo tipo, abbiamo bisogno di trasporto per portare la gente da un certo punto a un altro punto. Ora, questa tecnologia che usiamo tutt'oggi, che è una tecnologia che ha 100 anni o forse di più, il motore a combustione interna con tutti i suoi accessori eccetera, evidentemente a questo punto comincia a diventare insostenibile economicamente. Ma tra l'altro è vero che l'efficienza energetica è bassissima del motore? Sì, questo è ben noto, insomma i motori a combustione interna sono poco efficienti, ovvero convertono in energia utile, cioè motrice, una piccola frazione dell'energia termica del carburante, si parla normalmente del 20-25%, cioè il 75% dell'energia del petrolio ovvero della benzina, va tutto in calore. Per questo abbiamo un radiatore, ci mettiamo l'acqua dentro, sì, eccetera, eccetera. E per questo poi utilizziamo sempre più anche l'aria condizionata d'estate, che a sua volta però aumenta ulteriore inefficienza, va bene questo. Sì, sì. Ma tra l'altro poi l'automobile pesa una tonnellata. Perché, spesso c'è una sola persona dentro che pesa 80 kg, quindi alla fine il sistema è stato sviluppato in un momento di abbondanza, di basso costo dei carburanti liquidi, per questo si è sviluppato in modo molto inefficiente. A questo punto siamo in condizioni diverse, cioè i carburanti liquidi non sono più così a buon mercato come lo erano ancora pochi anni fa, e siamo in una tendenza che li renderà sempre più costosi, quindi il sistema si deve adattare, si adatta in qualche modo, che a noi ci piaccia o no, al limite andando a piedi, l'adattamento più ovvio e più diretto, ma se avremo abbastanza tempo per adattarlo tecnologicamente, evidentemente cambieremo motori, che useremo macchine più efficienti, useremo motori elettrici, che è la cosa più semplice. Ecco, in particolare motori elettrici e anche motori ibridi, cioè che hanno anche un motore a combustione interna piccolino che serve a ricaricare le batterie di elettricità. È possibile arrivarci, questo dipende dal tempo di adattamento che viene dato al sistema. Se il sistema ha molto tempo sufficiente, noi passeremo prima dal motore puramente a combustione interna come ora, sì, al sistema ibrido, dal motore ibrido poi andremo al sistema puramente elettrico. Se non avremo abbastanza tempo, dovremo andare direttamente dal motore a combustione termica, combustione interna, al motore elettrico. Se avremo veramente poco tempo, dovremo andare a piedi o in bicicletta. Bisogna vedere come il sistema si adatterà. Ecco, come concludere questa chiacchierata, professor Bardi? Ricordiamoci che tutto quello che facciamo ha una conseguenza, e non ci sono azioni che portano a una sola conseguenza, tutte le azioni portano molte conseguenze. Forse in conclusione possiamo anche ricordare che tutti i problemi ambientali ed energetici di cui stiamo parlando sono anche strettamente connessi alla questione del numero di esseri umani sul pianeta, nel mondo. Questo è veramente molto controverso, come lei ben sa. Sì. Comunque molta gente parla in modo, almeno se mia modesta opinione, anche questo argomento è trattato spesso in modo molto semplicistico, cioè riduciamo il numero di esseri umani attraverso una politica di controllo delle nascite. Sì. Sì. Personalmente mi permetto di esprimere un'opinione che è troppo semplice anche qui vederlo in questi termini, cioè la popolazione ha raggiunto certi numeri e sta seguendo una certa curva come conseguenza di tutto un sistema di produzione di cibo, di trasporti, di disponibilità di energia individuale, eccetera, eccetera. Quindi diciamo il petrolio, insomma. Esattamente, in gran parte il petrolio, quindi pensare di agire sulla popolazione da sola, anche qui si fa lo stesso errore di considerare il sistema come fatto di tanti pezzettini indipendenti, che non lo sono. Quindi sì, secondo me non si può agire, non si può risolvere il problema agendo unicamente sulla popolazione. No, sì, ma comunque io così volevo sottolineare in ogni caso il fatto importantissimo, cioè il fatto che l'umanità è passata da 1 miliardo di esseri umani, non so, 150 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente, è passato a 6,5 miliardi e probabilmente arrivare a 9 miliardi, a 10 miliardi. Sì, però su questo punto io darei anche un punto di una nota di favore agli esseri umani, che non sono così scemi come certe volte si dice, perché le teorie demografiche sono diverse, svariate, però da quello che si fa ora, la gente fa un certo tipo di pianificazione, spesso demografica, basandosi su una percezione di quello che sarà il futuro, ed è questo che sta riducendo nettamente la pressione demografica mondiale ovunque, perché se lei va indietro di qualche decina d'anni, di qualche decennio, le proiezioni davano decine di miliardi o più che ci sarebbero dovuti essere al momento di massima popolazione, invece la pressione demografica si sta riducendo, sì, nettamente. Cioè non a sufficienza probabilmente per tenere dietro alla caduta del petrolio, però certo, indubbiamente diciamo che su questo punto io credo ci sia qualche speranza di non Sì, perché poi non è solo la questione della crescita della popolazione come in termini solo numerici, ma la questione forse ancora in questo momento più importante è quella della crescita economica, della crescita dei consumi e del cambiamento di stile di vita in paesi emergenti come la Cina e l'India. Esatto, i paesi cosiddetti emergenti passano una fase di alta natalità, dopodiché questa alta natalità si inquieta un pochettino, quindi questo è bene, perché chiaramente il pianeta si discute se sia sovrappopolato oppure no. In linea di principio, se fossimo tutti brave persone e ci mettessero d'accordo, 6 miliardi di persone non sarebbero di per sé un numero eccessivo, almeno ce lo potremmo anche gestire, però in realtà con gli sprechi enormi che facciamo, la cattiva gestione e tutto, a quel punto sono troppi, nel senso che il concetto di superamento dei limiti che è stato più volte ribadito, nel senso che noi stiamo consumando risorse non rimpiazzabili. Si andrebbe al collasso, insomma. Diciamo che i modelli parlano di un collasso, molti modelli del sistema mondo a un certo punto dicono se continuiamo l'espansione, questa espansione a un certo punto sarà controbilanciata da un collasso, quello sono modelli io credo da tenere nettamente in considerazione. Va bene, allora noi senz'altro adesso ci possiamo fermare, quindi mi sembra, insomma, in conclusione possiamo dire che in ogni caso l'umanità non può continuare a vivere, a comportarsi come ha fatto negli ultimi decenni, facendo finta di nulla, insomma, c'è evidentemente qualcosa di drammatico in atto. Esattamente, siamo di fronte a grossi cambiamenti, su questo non c'è niente da fare. Ora dipenderà da noi se questi cambiamenti saranno traumatici, cosa potrebbe anche essere, oppure se noi li sappiamo gestire, sono un'occasione per migliorare la gestione del pianeta, che onestamente non è che sia fra guerre, deforestazioni, tutti i danni, inquinamento, eccetera, e facciamo, non è che il pianeta sia gestito onestamente nel modo migliore. Sì, allora, professore Ugo Bardi, io la ringrazio molto e spero di poterla risentire nei prossimi giorni, tornando ancora a parlare di energia e di petrolio, e forse sarebbe opportuno anche ricordare il sito internet del forum discussione sul petrolio. Aspoitalia.net. Bene, grazie ancora al professore Ugo Bardi. Grazie a te.